Storie, storielle, storiacce di Raffaella Calandra. Lei ha parlato anche di una prima categoria, appunto, di commissioni, quelle delle indagini su persone. Tra queste persone c'erano anche una serie di nomi noti. Sì, c'erano dei nomi noti perché ho indagato su alcune persone. Ha lavorato su Della Valle, su Benetton, su Gnutti. Sì. Vestito blu, spilla della Canottieri Lazio all'occhiello, volto fiero. Eccolo il pentito dell'inchiesta Telecom, Marco Bernardini. Anche lui è accusato di far parte di quell'associazione a delinquere di presunti spioni che ha portato alla scoperta di un archivio segreto di informazioni riservate su centinaia di persone, e anche il suo nome, insieme a quelli di Tavaroli e Cipriani, è nell'elenco dei 20 indagati per cui la Procura di Milano ha chiesto e ottenuto gli arresti. Ma lui lo ha evitato perché un bel giorno è andato nella stanza del PM Fabio Napoleone e ha cominciato a parlare. Non sono assolutamente pentito dei lavori che ho svolto e non ritengo definire pentito chi risponde alle domande di un magistrato che rappresenta lo Stato. Anzi, penso sia il dovere di tutti rispondere a queste domande. Quindi la sua non è stata una decisione di prendere le distanze rispetto ad una serie di attività che adesso sono sotto indagine, ma semplicemente una doverosa collaborazione con la magistratura, come dice lei? Guardi, io mi sono reso conto di una serie di persone a me vicine erano ufficialmente indagate da quello che dicevano i giornali. Una serie di persone a me vicine che avevo frequentato per attività lavorativa erano state precedentemente arrestate. Mi sembrava strano, anche avendo avuto così sentore di essere attenzionato da organi istituzionali, che nessuno mi chiamasse, mi convocasse e mi facesse domande. Fronte di questa sensazione, ho dato incarico al mio avvocato di prendere contatti con la Procura di Milano al fine di poter andare a chiarire eventuali dubbi e posizioni sulla mia persona, onde evitare che si potessero sviluppare poi strani teoremi o strane ipotesi. La cosa migliore è andare, se uno ha un dubbio o vuole avere dei chiarimenti, ritengo la cosa migliore sia venirli a chiedere. Dato che nessuno me li veniva a chiedere, sono andato io a chiedere che cosa eventualmente volessero sapere. Fino al 97 agente del SISDE, ora in causa con il servizio per ragioni economiche, Marco Bernardini ha lavorato come detective privato per la Pirelli Telecom in subappalto della Global Service dell'ex agente CIA Giampaolo Spinelli. Lei dice non mi sono pentito perché non dovevo pentirmi delle attività svolte, ma quali erano le attività da lei svolte? Allora, io ero pagato da un gruppo, quindi da un cliente, che poteva essere Pirelli piuttosto che Telecom, piuttosto che altri Pirelli, che altri clienti, però nella fattispecie si parla di Telecom e di Pirelli, per svolgere attività investigative su delle persone, legate direttamente o indirettamente al gruppo. Quindi io svolgevo la mia attività professionale né più né meno che come un avvocato svolge la sua attività professionale per un cliente che gli chiede di fare una causa o di prendere le sue difese in una causa in cui è soggetto passivo. Più nel dettaglio ci può descrivere che tipo di attività le veniva commissionata? Allora, le attività erano di due tipi. La prima attività era un'attività di indagine su persone. La seconda tipo di attività era l'attività di indagine su società. Quindi, per quanto riguarda le società, è andare a verificare l'effettiva, reale esistenza di una società che si propone magari come fornitrice o come rappresentante in paesi magari ad alto rischio, che possono essere il Congo piuttosto che il Gabon, piuttosto che il Sudafrica, dei prodotti Pirelli o che volevano distribuire, magari vendere prodotti o fare affari e vendere i loro prodotti al gruppo Telecom. Quindi andare a verificare chi effettivamente fossero, che solidità avessero, e dato che uno dei sistemi dello spionaggio industriale è creare società fantasma che possono poi acquisire le strategie dell'azienda attenzionata in maniera indiretta, andare a verificare che non avessero link con società competitor del gruppo. Detta così sembra tutto bello e pulito, e seduto nello studio del suo avvocato Vincenzo Carosi nel cuore di Roma, Marco Bernardini racconta con assoluta normalità la sua storia di investigazioni, di pedinamenti fatti e subiti, di informazioni acquisite e vendute, come quelle trovate nell'enorme archivio scoperto al titolare della polis distinto, che ha fatto parlare il GIP Paola Belsito di un sistema di investigazioni illecite che costituisce un possibile strumento di pressione, minaccia, se non addirittura estorsione. L'attività era vedere se eventualmente questi soci o comunque possibili, come dire, futuri soci effettuassero delle attività che potessero essere in contrasto con la proprietà principale e quindi approfittare della loro posizione per favorire aziende a loro vicine. Come realizzava tutto ciò? Ma guardi, il modus operandi poi realmente, al di là di quello che viene detto, è una cosa estremamente semplice. Cioè, il modus operandi è quello tradizionale, si avvicinano persone magari vicine, si contattano, si raccolgono indiscrezioni da loro su quello che viene fatto, oppure semplicemente si fa un lavoro di tipo amministrativo, cioè si va a fare la ricerca sui database, ci sono società in tutto il mondo che, dando un nome, danno poi tutta quanta una serie di società direttamente o indirettamente collegate con i bilanci, con chi hanno i link, eccetera. Sono società, in Italia ce ne sono poche realmente, ci sono molte società straniere che lo fanno, fra l'altro alcune di queste lavorano anche per il nostro Ministero degli Esteri, e quindi attraverso queste società si riusciva ad avere una serie di link, di contatti e di indicazioni su dove andare a cercare e cosa andare a vedere. E lei questi report su Benetton, Gnutti, piuttosto che Della Valle, piuttosto che Nola, un uomo di Prodi? Non so se sia un uomo di Prodi, so che era l'ex segretario generale della Telecom, allontanato poi dopo l'arrivo del gruppo Tronchetti Provera, del presidente Tronchetti Provera all'interno della Telecom. Sono stati monitorati. Nola, fra l'altro, mi risulta che lavorasse a stretto contatto con Gnutti. Attraverso Vittorio Nola, ex responsabile sicurezza Telecom, entra nell'inchiesta il nome del premier Romano Prodi, perché il professore è citato in un appunto datato 15 settembre 2001 con un elenco di persone da sottoporre a investigazioni, giornalisti, politici, manager interni. Ebbene, quel Nola, definito negli appunti uomo di Prodi, fu allontanato dopo la scoperta di una cimice, rivelatasi finta, nell'auto della top manager Enrico Bondi. Quando la Pirelli deve acquisire, praticamente c'è la scalata alla Telecom, nei mesi precedenti alla scalata alla Telecom, Tavaroli mi chiese di informarmi su come funzionava la Telecom e quello che avveniva nella Telecom. Allora, attraverso dei contatti che avevo, ho fatto un po' una radiografia del gruppo. Poi, quando venne fuori il problema relativo alla microspia nella macchina di Bondi, mi fu chiesto di indagare su questa microspia e la traccia mi aveva portato a una società fornitrice di questi prodotti e a un operatore che stava lì dentro. Un punto questo centrale del primo dei quattro interrogatori resi da Bernardini davanti al PM Fabio Napoleone. Voglio anche riferire, si legge nel verbale del 22 agosto, di aver appreso dell'esistenza di intercettazioni abusive effettuate presso la Telecom nel periodo precedente la gestione di Tavaroli, in quanto quest'ultimo mi incaricò, dichiara, di effettuare delle verifiche. Gli risultava che i servizi attraverso Telecom ascoltassero e controllassero tutti. Segue un lungo missis che introduce in quell'area ancora non del tutto definita dei rapporti tra i due indagati centrali, Tavaroli e Cipriani, e il loro amico fraterno Marco Mancini, ex numero 2 del Sismi, indagato in questa inchiesta ma soprattutto per il rapimento dell'ex imam di Milano Abu Omar. So che lo chiamavano Tortello, questo sì. Io Marco Mancini non l'ho mai conosciuto di persona, l'ho visto solamente una volta perché accompagnai Tavaroli a un appuntamento e lo aspettai in macchina mentre scendeva a parlare con questa persona, e questa persona poi in seguito ho riconosciuto dalle foto sui giornali quando scende con la sua collega La Sgrena dall'aereo, ho riconosciuto essere Marco Mancini. Ho ricollegato poi i due volti Tra l'altro devo dire che rispetto al primo si era appesantito un pochino nella foto dell'aereo. Sapeva che si occupava anche dell'Iraq? Bene o male si sapeva, sapevo che lui era all'interno dell'organismo. Lei sapeva però dei rapporti molto stretti tra Tavaroli e Mancini? Sì, io sapevo che erano molto stretti i loro rapporti, cioè c'era un rapporto di amicizia, perché chiaramente facendo qualche volta i viaggi in macchina con Tavaroli si parlava, e quindi sentivo che parlava al telefono con, e sapevo chi era, quando, perché quando lo chiamava Ciao Tortello sapevo chi fosse. Quindi, però degli scambi di favori, delle cose che facevano o meno, io non ne ho mai avuto coscienza e non ho mai saputo nulla. Quindi anche del fatto che Mancini, ad esempio, dichiari che Tavaroli, quando poteva, diciamo, dava una mano, anche aiutava lui in qualità di funzionario del Sismi, di questo lei non ne ha mai avuto percezione? No, assolutamente, non mai, anche stando qualche volta a contatto, perché in alcuni viaggi, oppure a Roma in macchina, lo accompagnavo in giro, perché dice almeno sono sicuro, non prendo uno dell'azienda perché sono sicuro che le telefonate non vengono riferite poi appena si ritorna in ufficio, ma assolutamente non ha mai parlato, almeno con me non ha mai parlato di queste cose. Ma tra poco Bernardini parlerà ancora di un altro protagonista dell'inchiesta che ha messo sotto accusa il servizio segreto militare italiano e quello americano, tratteggiando un'oscura rete di rapporti tra intelligence, investigatori privati e funzionari con accessi a banche dati riservate. Bernardini parla anche di Ludwig.